Vassia, smettila di fare il furbo. Arcadi, che fai? Non stavi dormendo? No, mi pare che non stavo dormendo, no. Beh, buonasera, allora, buonasera, fratello, buonasera, Vassia, Arcadi. Tu non sai ciò che sto per dirti. No, io sto per dirti so. Una cosa davvero importante. Davvero? Aspetta, allora, vieni un po' qua. Arcadi, basta, che sei fai? Proprio un merlo. Dai, ti sei buttato favore, lo solo nelle mie mani. Frac. A cosa ti serve il frac? Dove sei stato oggi? Dov'è che hai pranzato? Di questo appunto ti volevo parlare. Ma dai, parla tu allora. Prima lasciami. Tu prima parla, ma merlo. Non capisci che è impossibile così? Ci sono certi argomenti. Ma che se ne parli in un modo come questo viene fuori una cosa ridicola. E tu così me ne devi parlare proprio in modo che mi venga da ridere. Altrimenti che amico saresti? Non è una cosa da ridere, è una cosa importante. Ah sì? Allora non la voglio sentire. Beh, io mi sono fidanzato. Ah, ti sei fidanzato? E con chi ti sei fidanzato? Parla, merlo. Ninna nanna. Ninna, ho questo vassuccio, a chi lo do? Lo darò alla sua fidanzata. E adesso fascerò il mio fidanzato. E adesso fa... Vassia, non ti sei offeso? E dai, è Capodanno. Ma quando mai mi offendo con qualcuno? Io è solo che mi hai dato un dispiacere. Che dispiacere? Mi capisci? Vivo da te come da un amico, col cuore pieno di felicità. Vassia, e tu mi salti addosso in quel c'è? Modo. Cosa c'è di tanto importante? La mia dignità, io prendo moglie. Ecco che cosa c'è. Vassia, ma dici sul serio? Oh mio Dio, tu fai così con la testa, ti luccicano gli occhi, questo non è uno scherzo, allora! Ma se tu me lo avessi detto subito, io non avrei fatto così! Ma no, ma non fa niente, davvero, è solo che non sono riuscito a raccontartelo come volevo, tu sai mio, che ma per me com'è sei così possibile importante che tu prendi moglie? Voglio dire, com'è che non ne sapevo niente? Mi è costato tenertelo nascosto, ma ero innamorato, capisci? Credevo che la cosa non avrebbe funzionato! Sì, va bene, ma com'è andata la cosa? Chi è lei? È una delle Artemie. E come si chiama? Lisanka. Dai, su, racconta! Non so nemmeno da dove cominciare. Beh, lei era fidanzata una volta e io lo conoscevo, lui, un tipaccio, ma poi all'improvviso lui lo spediscono da qualche altra parte e non si sa dove, e per un anno intero non le scrive affatto. Poi di colpo torna a casa già sposato e da loro non mette nemmeno piede, una cosa brutale, nessuno che intervenisse per loro, e piangeva la poverina, sicché io inizio a consolarla e andavo sempre da lei, e così io mi innamorai, ma da tempo, già da sempre ne ero stato innamorato. E insomma non so com'è, come non è, fatto sta che a un tratto anche lei si innamora di me, ma non mi dice niente. I giorni passavano, io a un certo punto non ho più resistito e le ho detto tutto. Sì, che la amo, tutto insomma. E lei? Anch'io sono disposta ad amarvi, fa lei. Ma non prendetevi gioco di me, sono una ragazza povera, non oso nemmeno amare qualcuno. E così, lì per lì, noi due ci scambiamo la promessa di matrimonio. Io allora sono contento, ma poi penso come dirlo alla mamma. Aspettate un pochino, mi fa lei. La mamma adesso ha paura, non mi darebbe subito a voi. E piange. E tu? Io allora ci penso e ci ripenso finché alla fine oggi, senza dire niente a nessuno, vado dalla madre e le spiffero tutto. Lisanka ed io stavamo in ginocchio davanti a lei e la madre a quel punto ci ha dato la sua benedizione. No. Sì, piccione mio, noi due andremo a vivere insieme. Ma per nulla al mondo io mi distaccherò da te. Vassia, ti giuro, per quanto ti guardo mi pare impossibile che tu prendi moglie. Sai, anch'io avevo pensato di sposarmi un giorno, ma siccome sei tu che prendi moglie, ora beh, sii felice, fratello. Sii felice. Adesso io mi sento l'anima così leggera, sai, questa non è la solita storia letta in qualche romanzo. Noi due saremo felici veramente. Oddio, guarda che roba! Impazza la festa là fuori! Eh già, impazza! Guarda che spettacolo! Sai, mi era venuta in mente una cosa prima, ma adesso ho come paura a dirtela. Vedi, io sono entusiasta che tu prendi moglie davvero, ma dopo, di che cosa vivrai? Voglio dire, riuscirai ad arrivare alla fine del mese? Oddio, come sei, Arcadi, ma perché non mi domandi piuttosto di che cosa vivono loro? Chi? Le Artemie. Tu ed io, in confronto, siamo dei capitalisti. Beh. Poi lo sai, io in certi mesi buoni posso raccimolare persino 700 rubli. Ma quali 700? Solo 300, piccione mio, solo 300. E Julian Mastakovic, tu te lo sei scordato, piccione mio? Quella è una cosa incerta. Lui è il mio benefattore. Ma è precaria. Tu non puoi contare sempre sugli extra. Non è come 300 rubli di stipendio, dove ogni rublo è un amico fedele. E tutto a un tratto Julian Mastakovic potrebbe stancarsi di te, potrebbe prendere un altro, tutte le sue attività potrebbero anche cessare, e tutto a un tratto Julian Mastakovic potrebbe non esistere più. Beh, tutto a un tratto il soffitto potrebbe crollarci in testa. Sì, va bene, non dico niente allora. Io faccio sempre tutto con un certo zelo. Lui è così contento di me. Oggi mi ha dato 5 rubli d'argento. Possibile, un premio? Di tasca sua. Tu sai che lui è sempre così rigido, no? Tu stesso qualche volta sei incappato nelle sue osservazioni. Beh, oggi lui è passato in ufficio e ha scherzato con me. Ehi, lo Shunkov, andrai a far baldoria per le feste questa sera? Io allora prendo coraggio e dico: certo, eccellenza, e forse mi divertirò. Lui allora ha allungato la mano e mi ha dato i denari. Tofa, se li vuoi prenditeli e vatti a divertire. Beh, mi sono spuntate le lacrime. Lui allora mi ha battuto la spalla e mi ha detto: sii sempre sensibile, Shunkov, sii sempre sensibile, come se io ora così. Mi ha detto, beh, mi sono messo proprio a piangere allora. E anche lui si è commosso un pochino, mi pare. Voglio dire, ma per quale motivo lui si dovrebbe stancare di me? Ma... A proposito, Vassia, tu hai finito di copiare per lui quelle carte? Quali carte, dici? Come quali quelle? Quel famoso lavoro extra, quello che lui ti ha affidato da 3 settimane. Non mi ricordare, fratello, non mi ricordare. Beh, che cosa è successo? Non le ho ancora finite. Non le hai ancora finite? Non ancora. E com'è possibile che tu non l'abbia ancora finite? Arcadi, che c'è? Mi guardi in un modo, mi si rimescolano le viscere. Adesso mi ci metto subito, infatti ho ancora 2 giorni di tempo. Ma perché tu ti inquieti sempre per me? E se poi non riuscissi? Lui oggi ti ha dato i denari e tu adesso ti sposi. Ma com'è possibile che tu non l'abbia ancora finite? Sì, ma ragiona, scusa, potevo forse starmene a casa. Io in ufficio non riuscivo nemmeno a stare fermo, io soltanto a lei pensavo. Adesso io starò a scrivere tutta la notte, domani notte starò alzato e finirò questo lavoro, quanto è vero iddio. Oh, e tu mi deprimi sempre in un modo. Ah? Le ho parlato di te. Che penna schifosa. Ci avevano pure invitato per il Capodanno. Stasera? Sì, stasera. Niente festa, no, allora? Niente festa, bisogna andare avanti con questo lavoro, purtroppo. Lo sai anche tu, se non si finisce in tempo non si sa che cosa ne possa venire fuori. Ma te rimasto... Scusa, non posso risponderti adesso, colpa mia che ho iniziato il discorso. Volevo fare altre 2 paginette, ma poi t'ho pensato e mi sei subito venuto in mente. Chissà come mai mi venite sempre in mente voi due. Chissà come mai mi venite sempre in mente tu e lei. Vassia, eh? Sono 2 ore filate che scrivi, sei stanco, caro, vuoi del tè? No, niente tè, caro, grazie. Ti riposi un pochino mentre lo bevi e l'istante penoso passerebbe. Arcadio, devo andare avanti con questo lavoro, adesso ti prego non mi disturbare. Sai, mi era venuta in mente, fa niente, scrivi. Ma a te è rimasto ancora molto da scrivere? Sì, molto, incredibilmente molto. Quanto? Non lo so, un quadernetto. Beh, questo pare, non è mica molto. Qua dentro ce n'è ancora. Tanto? Non lo so, un po' di roba. Un po' di roba. 4 scatoschi, 2 foglietti. Ma allora, piccione mio, oggi è il Capodanno. Stasera sono tutti riuniti nelle loro famiglie a giocare alla tombola, a ridere insieme. Soltanto io e te siamo orfanelli. Perché tormentarci proprio stasera? Ma andiamo da loro piuttosto. Mi presenti a loro oggi stesso? Restiamo soltanto un paio d'orette. Sì, un paio d'orette. Poi separazione fino alla fine, fino a quando non avrai terminato le tue carte, promesso! Sì, va bene, ma soltanto un paio d'orette, però mi raccomando! Sì, va bene, corro a mettermi in gala, corro a prepararmi! Aspettami, Arcadio, devo ancora spazzolarmi, fra... Dai, sbrigati, va, se andiamo a festeggiare, è il Capodanno! Aspettami, Arcadio, oggi tornando ho visto un negozio francese di Madame Leroux, oggi sono entrato lì dentro e ho visto una cosa meravigliosa! Cosa? Una cuffietta! Si chiama modello ma non Lesco. È tutta di tulle, leggera, con i nastri color ciliegia. Ce n'è di più ricche, mi fa lei. Ma la vostra scelta è la più coquette, è la più civettuola. E se poi non è cara? Che dunque? Un regaluccio, anima mia. Un regaluccio per la mia Lisanca. Ah certo, un regaluccio per la tua Lisanca. Io proprio non ci avevo pensato. E anche se fosse caro, Vassia, davvero, tu sei il più alto fra tutti i poeti. Andiamo a festeggiare, è il Capodanno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Guarda un po' cosa ti sei andato ad inventare. Ma non le scote. Tu civettavi, preconcello, civettavi in solitudine. A bella posta ti nascondevi nei negozi francesi. Sei proprio un viveur. Forse sono nato viveur. Ma come hai fatto a scovare quell'amore di cuffietta? Io non lo ma so. Ma perché non ne avevano una ancora più bella? Ma dove la trovi una ancora più bella? Era una cosa che non è uguale. Tutta di tulle, leggera, con i nastri color ciliegia che vanno fra il tulle e la trina e poi scendono giù, sulla nuca, fra il collo e la schiena. Ma tu non l'hai nemmeno guardata, sì. Tu t'eri incantata a guardare da un'altra parte. Tu t'eri incantata a guardare quei quei due lacrimoni grossi e simili a perle che spuntavano fuori dagli occhietti della tua Lisanka. Ah, fratello, te lo confesso, io appena l'ho vista mi sono innamorato cotto di lei. Arcadio, sono così felice. Ah, sono così felice anch'io, Colombello. Ma tu non puoi nemmeno immaginare cosa sto provando io in questo momento. Il mio cuore adesso è così pieno. Guarda, guarda, guarda che cosa mi ha scritto la mia Colombella. Ti lascio una ciocca dei miei capelli foltissimi che alla luce del sole sembravano neri. Lassia. Oh, Colombella cara, Lisanka mia, Lassia. Perché proprio a me, dico io, che cosa ho fatto io di speciale? Guarda fuori, quanta gente infelice, quanta vita monotona, senza una festa. Lassia. Me mi ama una simile ragazza a me, tu stesso oggi hai potuto apprezzare il suo nobile cuore. Lassia, davvero, tu sei il più fortunato fra tutti i mortali. Io sono nato con un difetto fisico, tu lo sai, sono un po' storto da un fianco, sono sbilenco. Ma lei si è innamorata di me così come sono. Lui oggi è passato in ufficio e ha scherzato con me. E t'ha dato i denari. E tu soprattutto, tu mi rendi così felice con la tua amicizia che a volte mi sembra che non mi sposerei nemmeno se tu non ci fossi. Massia. No, non dire una parola, lascia solo che io ti stringa la mano e che ti ringrazi. Adesso noi staremo sempre insieme, non ci separeremo mai più. Oramai io l'amo quanto amo te, sai, oggi ho detto una sciocchezza, i soldi basteranno. E come se basteranno, appena l'ho vista ho capito subito che basteranno qualsiasi cosa per lei. Lei sarà il nostro angelo e la vostra felicità si riverserà su di me. E poi, se l'uomo è allegro, i sogni son radiosi. E ogni tanto magari ci piovono in testa 5 rubli d'argento. E ad ogni rublo una bella cuffietta, una sciarpetta, dei calzini. Ah, a proposito, lei mi deve fare assolutamente una sciarpa nuova. Guarda, guarda come sudicia questa. E oggi mi ha combinato proprio un bel guaio. Che guaio? E anche tu sei un bel tipo, eh. Mi presenti mentre c'ho ancora sto collare addosso? Ero tutto avvoltolato dentro questa sciarpa di lana bruttissima. E per fare più effetto l'avevo anche annodata dietro. Bisognava togliersi tutto prima di entrare da loro, per presentarsi in un aspetto più vantaggioso. Tu invece spalanchi la porta e gridi così, come se niente fosse. Eccoti il mio migliore amico Arcadi, abbraccialo e dagli un sacco di baci, e dopo che l'avrai conosciuto gliene darai ancora di più. Certe volte provo perfino vergogna per i tuoi eccessi di entusiasmo. Questi dimostrano il tuo buon cuore, ma è una cosa goffa, non sta bene. Arcadi, non dire così, tu sei sempre stato un po' maldestro con le donne. Che una cosa? Volta è accaduto perfino che tu hai aperto una porta e tu sei sempre solito Vassia, poi indisponente, insopportabile, certo, sempre il caro e ottimo Vassia, ma alla fine l'insopportabile e lo spietato Vassia. Arcadi, non fare così! Tu hai fatto furore tra le donne questa sera, hai parlato in un modo così intelligente, così brillante, che dopo un'ora la conversazione non si era ancora esaurita. E con quale tatto, poi, con quale delicatezza sei andato a tastare certi argomenti. Del mio rapporto con Julian Mastakovic, per esempio, è tutta una serie di cose che hanno a che fare con me, col mio lavoro. Sì, la vecchia si è quasi incantata a guardarti parlare, a un certo punto mi ha preso da parte apposta per dirmi che tu sei il più perfetto e il più simpatico di tutti i giovanotti, e anche la mia Lisanka lo ha notato. Che cosa? Beh, che sei un vero gentiluomo, così a modo, così posato. Vassia, io ti devo confessare una cosa. Arkady Ivanovic? Sì? Aggiustatemi questa cuffietta. Ah, certo, ecco qua. Ah! Adesso che il nostro caro Vasinka è di là con la mammina, io vorrei approfittarne di voi. E come? Vi vorrei ringraziare personalmente. E per cosa? Ma per il preziosissimo Vassia. Sapete, lui mi parla sempre di voi, di come gli siete amico e in che modo sincero gli volete bene e lo assistete con i vostri preziosi consigli. Sapete, io vi sono estremamente riconoscente per questo. Non c'è bisogno che mi ringraziate per questo. Ah, ma io lo voglio darvi tutta la mia riconoscenza, voglio darvela tutta. Grazie. Ma perché non vi fermate qui da noi stasera fino alla mezzanotte? Festeggeremo insieme, giocheremo alla tombola, sarà magnifico. Sarebbe magnifico, sì, ma noi purtroppo non possiamo restare. Vassinka ha un lavoro urgente da fare e lo deve terminare al più presto. No, quel terribile lavoro extra. Già, proprio quello. Ma come va che non l'ho ancora finito? Lui lo ha completamente trascurato. Ma come è possibile? Come non capirlo? Voglio dire, voi lo avete reso così felice con i vostri con le vostre. Sì, ma adesso bisogna mettersi al lavoro, bisogna darci dentro. Oddio, sì, assolutamente. Voi dovete stargli sempre accanto, mi raccomando. Lui si prende a cuore sempre tutto, ma è così debole, così impulsivo e conosce così poco gli uomini e la vita pratica. Io ve ne prego, abbiate sempre cura di lui. Io veglierò su di lui e cullerò il suo destino. Noi staremo sempre insieme, allora. Ma certo, amicizia per lui e amicizia per voi. Giurate, dunque, giurate. Vassia! È tardi, Vassinka! È ora di andare! Ah, porca miseria! Eccomi, arrivo! Rigati, dai! Eccomi, Arcadi! Eh? Arcadi! Ah! Eccomi, stavi dicendo! Quando tu ti sei appartato con la vecchia... Beh... La tua Lisanka mi ha preso la mano e mi ha voluto ringraziare personalmente. Sì, per come ti sono amico e in che modo sincero ti voglio bene. Ma poi mi ha mostrato anche un po' d'apprensione circa le condizioni della tua salute, la particolare impulsività del tuo carattere, la tua scarsa conoscenza degli uomini, della vita pratica, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, io le ho promesso che avrei vegliato sempre su di te, religiosamente, e che anche lei, insomma, sperava che noi non ci saremmo lasciati mai più. Tu adesso tieniti stretto a me, Vassinka. Io oramai veglio su di te. Noi adesso prenderemo in affitto un altro appartamento con 3 camerette ben separate. Una per te, una per lei ed una per me. 3. Anzi, no, 2. 2 camerette. A noi non ne servono di più, sì? Andrò io stesso domani a vedere i cartelli sui portoni. Lei sarà la nostra padrona di casa e noi lavoreremo sodo. Ah, come lavoreremo, al pari dei buoi che arano la terra. Vassia, Vassia, che c'è? Arcadi, ti prego, adesso basta parlare, io devo andare avanti con questo lavoro, non mi disturbare. Che rabbia che non abbiamo la stessa scrittura, non ti posso aiutare, mi ci metterei subito a scrivere al posto tuo. Non ti preoccupare, fratello, io finirò questo lavoro quanto è vero, sì, iddio. Sì, scrivi, scrivi, fratello, a volte t'ho visto scrivere molta più roba e molto meno tempo. E in caso estremo, lo sai, no? Si può far correre la penna. Scrivi? Guarda, vieni a vedere, Vassinka, è quasi mezzanotte, è impazza la festa là fuori! Arcadi, basta parlare, io devo andare avanti con questo lavoro, adesso non mi disturbare! Ma andiamo fuori piuttosto, e domani finisci il tuo lavoro! Domani devo andare da Julian Mastakovic, io domani! Da Julian Mastakovic? Sì, voglio andare a mettere la firma nel registro degli auguri! Ma che stai dicendo? Tu non ne hai bisogno! Io voglio andare ad apporre la firma quest'anno, assolutamente! Ci andrò io, se vuoi, al posto tuo! Ma ti pare il caso che ci vada tu? Che c'è di meglio? Ad apporre la firma, di lui è il mio ormai benefattore, se poi si accorge che la mano è d'un altro, potrebbe anche insospettirsi. Ma come se ne accorgerebbe? Scusa, tu sai che faccio la tua firma in modo del tutto somigliante, faccio anche lo svolazzo uguale al tuo. No, non si può fare una cosa del genere, ci andrò io da lui, è deciso. Va bene, vacci pure. Io finirò questo lavoro, quanto è vero, iddio, adesso starò a scrivere tutta la notte, domani notte starò alzato e finirò. Tu va pure se vuoi, vatti a divertire. Vassia. E se mi addormento, svegliami alle 8. Vassia, sta calmo. Tu finirai questo lavoro, quanto è vero iddio. E anche se poi non riuscissi, non sarebbe certo un delitto. Arcadi, lo sai, a volte mi piacerebbe poter parlare con te come ad un amico. Beh, parla allora, che cosa ti turba? Vedi, ad alcuni di noi è dato di fare grandi cose nella vita. Certo. Certo. Mentre ad altri, come a me, soltanto piccole cose. Ma metti caso che si esigesse da te una certa riconoscenza e che però poi tu non fossi in grado di dimostrarla, voglio dire, tu che cosa faresti? Ma sia davvero, io non riesco a comprenderti. Vedi, io non sono mai stato un ingrato, ma se poi non so esprimere tutta la mia gratitudine, allora è come se lo fossi. E allora farei veramente la figura dell'ingrato e questo allora mi uccide, lo capisci? No, non capisco, no. È mai possibile che tutta la tua gratitudine consista per te nel copiare in tempo, nel mettere la firma? Perché non pensi ogni tanto a quello che dici? È forse con questo che si esprime la riconoscenza? Vassia. Vassia. Oddio, che ore sono? Sono le 11, t'avevo chiesto, svegliami alle 8. Mi dispiace, Vassiuccio, a che ora ti sei addormentato? Non lo so, verso le 6, credo. come fa freddo di notte. Beviamo un po' di tè? Sì, subito, riscaldati. Corro subito a preparare il samovar. Buon anno, fratello. Buon anno. Salve, fratello, salve altrettanto a te, caro. Vai adesso, vai, su. Corri a preparare il samovar. Sì. Aspetta un momento, Vasinka. Oddio, che cosa succede adesso? C'è una sorpresa per te. Arkady, che hai fatto? Chiudi gli occhi, non ti muovere. Oddio, tu non dovevi. Dai, su, apri gli occhi, non fare tante storie. Oddio, ma guarda che roba. Un portafoglio di pelle con un cervo disegnato sul retro. Ma guarda com'è bello e com'è somigliante. È tutto al naturale e corre con una velocità straordinaria. Ma è meraviglioso. Un regaluccio per il mio Vasinka. Ma io proprio non me l'ero aspettato. Grazie, fratello, grazie. Su, facciamo presto adesso però, Io devo andare subito dalla mia... Da Julian Mastakovic adesso. E poi devo andare avanti con questo lavoro. Perché non mi ascolti per una volta? Un giorno di tempo. No, ci andrò io da lui. Va bene, vacci pure allora. Chi te lo impedisce? Io andrò da loro intanto. Da chi? Dalle Artemiev. E così farò gli auguri da parte tua e da parte mia. Che te ne pare? Vassia? L'hai pensata bella. Bene, vado ad aggiustarmi la barba. Beh, va anche da lui allora. Da chi? Da Julian Mastakovic. Sì, ci andrai tu a mettere la firma. Ho cambiato idea. E poi vai anche da lei. Sì, falle gli auguri e dille tutto quello che ti viene da dirle. Baciala, abbracciala, poi torna a casa e raccontami tutto. Io starò a scrivere, intanto non passerò il tempo in ozio. Bene, sì, bravo. Tu resta a casa e finisci il tuo lavoro. E poi vedrai, saremo felici e contenti. Passeremo le serate insieme, giocheremo alla tombola. Sarà magnifico. Abbracciami, Vassia. Vassia, che c'è? Non lo so, mi sono sentito un po' triste. Ma tu mi uccidi con questa tristezza. È un giorno di festa, tra l'altro, come fai ad essere triste? Non lo so, mi sono sentito un po' solo. Come solo? Tutti ti vogliono bene. Lisanka ti ama, Mastakovic ti stima e il tuo lavoro va avanti. Come può tutto questo esserti così insopportabile? E non lo riesco a sopportare, si vede. Io fra poche ore sarò a casa. Tu cerca di far correre la penna piuttosto e non stare mezz'ora su ogni parola. Non devono mica litografare quello che scrivi per farne un'opera d'arte. Beh, guarda, no? Questa poi... In tutta Pietroburgo non c'è scrittura migliore della tua. Perfino Mastakovic l'ha notato. Quando? Bravo, Shunkov! La cosa più importante è la chiarezza. Io voglio soltanto, ed esigo soltanto, chiarezza. Chiarezza! Vassia? Vassia? Vassia, dove sei? Ah, sei qua allora. Mi hai fatto spaventare. Vassia, che hai fatto? Sei stato da lui oggi. Da chi? Da Julian Mastakovic. Ho trovato la tua firma nel registro degli auguri. Perché non sei stato a casa a scrivere? Non guardarmi in quel modo. Parla piuttosto. Arkady, io ti devo confessare un segreto. Cosa? Io ti ho ingannato. Io ho tradito la tua amicizia. Ma che cos'è questo? Questo è quello che devo copiare davvero per domani mattina alle 9. Io non ne ho fatta nemmeno la quarta parte. No, tu non domandarmi come questo è accaduto. Io ho sprecato inutilmente 3 intere settimane perché andavo sempre da lei e soltanto a lei pensavo. E soltanto adesso che la felicità sta per giungere, io sono ritornato in me. Mi pare di uscire da un sogno. Marcia, sta calmo. Io ho capito che cosa ti succede. Tu sei ancora un po' agitato e scosso dalla giornata di ieri. Tutta questa felicità t'ha scombussolato. Tu ti ricordi quel che ti accadde l'anno scorso quando passasti di grado e diventasti registratore di collegio? Che per la felicità e la riconoscenza raddoppiasti lo zelo, ma per una settimana intera sciupasti soltanto il lavoro. Ecco, adesso t'accade la stessa cosa. Ma non è la stessa. Ma sì che è la stessa, è lo stesso motivo. Tu t'ammazzi di lavoro ma non combini niente. Perché non sei andato avanti a scrivere oggi? Non lo so, non riuscivo a rimanere senza di te. Ma che stai dicendo, Vasinka? Tu ti sei messo in testa non so quali paure, ma non va bene così. Qua si può anche perdere la testa. Tu adesso ascoltami, noi ci salveremo. Ma tu mi devi promettere che domani mattina, appena ti svegli, andrai da lui per chiedergli una proroga. No, non si può fare una cosa del genere. Lui è il mio benefattore. Se non si consegna in tempo, non si sa che cosa ne possa venire fuori. Se tu non ci vai, ci andrò io allora, per forza. E gli racconterò tutto. Del tuo turbamento, di come ti sei accasciato. Ed egli saprà tutto. Tu non ci andrai, non ci andare, ti prego, ti prego. Va bene, tu adesso ti cruci perché non vuoi che dica nulla a Julian Mastakovic. E per carità di Dio non glielo dirò. Ma mi devi permettere almeno domani mattina di andare in ufficio a indagare su che tipo di lavoro è mai questo. Se è una cosa urgente, se è importante, o se arriva in ritardo, che cosa ne potrebbe venire fuori. E appena scopro qualcosa corro subito da te. Ma lui stesso si è già dimenticato magari. E allora siamo salvi, già c'è speranza, vedi? Arcadi, basta, ti prego, tu mi uccidi così. Marcia, io ti uccido perché so come sei fatto. Ma io non so più cosa devo fare con te. Tu mi hai straziato l'anima, martire mio. Sono 3 anni ormai che viviamo insieme sotto lo stesso tetto. E grazie a Dio tu sei buono, sei affettuoso e tutto il resto. Ma sei debole, sei imperdonabilmente debole. E anche la madre di Lisanka lo ha notato. Quando? Oggi, proprio oggi. E poi sei un sognatore. E anche questo non va bene. Io lo so che cosa vorresti. Tu vorresti che Julian Mastakovic fosse fuori di sé dalla gioia che tu ti sposi e che desse un ricevimento in tuo onore, magari. E siccome tu adesso sei felice, allora vorresti che tutti quanti di colpo diventassero felici e venissero qua, tutti insieme, ballando e a farti gli auguri. E no, io non rido, è così. Tu non sai essere felice tu solo, perché non riesci a sentirti degno della tua felicità. Perché proprio laddove dovevi dimostrare il tuo zelo hai mancato. E ti riesce penoso pensare che sentirai dei rimproveri da quello che tu reputi il tuo benefattore e che dovrai rinunciare all'affetto e alla stima che lui prova per te. Ma non è affatto necessario che tu rinunci al suo affetto se è questo che ti tormenta. E dal momento che è questo, io domani semplicemente andrei da lui per chiedergli un giorno di proroga. E non scuotere la testa. Tu di una semplice mancanza hai fatto un delitto, lui invece è magnanimo, è misericordioso, non è come sei tu che te la prendi sempre per tutto, che fai sempre... Basta, ti prego, basta, semplicemente basta adesso, io non ho ancora finito, ma se non ho finito vorrà dire che non avrò finito, ma non occorre che ci vai tu! Io adesso, vedi, sono così stanco che non riesco neppure a parlarne, parliamo di qualcos'altro, parliamo al più presto, non torniamo per forza su questo argomento, io non scriverò neppure adesso. Scriverò soltanto 2 paginette, così, per arrivare a un punto qualsiasi. Arcadi, lo sai, io è da un pezzo che ti vorrei fare questa domanda. Ma com'è che tu mi conosci così bene? Se tu sapessi fino a che punto io ti voglio bene, non mi faresti questa domanda, no? E infatti, lo sai, io non lo so proprio il perché. Io non so come mai tu mi abbia messo addosso così tanta affezione. Sai, forse tu non lo sai, ma a volte il tuo affetto persino mi accasciava. E tu non sai quante volte io prima di addormentarmi, sì, perché io poi penso sempre a te quando mi addormento, io mi sono bagnato di lacrime e il mio cuore ha tremato, sì, perché tu mi vuoi così bene, mi vuoi sempre così bene, che però poi non posso mai in alcun modo ringraziarti, non posso mai in alcun modo esserti riconoscente. Bassia, ti prego, non dire così. Ma che cosa? È così, vedi, io vorrei sempre dirti tutto, ma però poi temo sempre ad amareggiarti, perché poi tu t'amareggi sempre per tutto, mi sgridi per tutto, a volte io ho persino paura, guarda come sto tremando adesso, non so nemmeno il perché. Bassia, sta calmo. Sono calmo, che cosa credi, che mi voglia uccidere o che mi voglia ammazzare? Tu vuoi che mi calmi? Ecco, sono calmo. Non sono mai stato più calmo in tutta la mia vita. Beh, parla. Che cosa ti ribolle nel cuore? Mi sembra di non essermi mai conosciuto prima e che anche tutti gli altri io li ho conosciuti soltanto ieri. Cioè, io non sentivo, ero insensibile, non apprezzavo fino in fondo. Vedi, io soltanto questo vorrei sapere. Com'è possibile che io a nessuno non ho mai fatto del bene perché non lo potevo fare? Persino d'aspetto sono sgradevole e tutti quanti invece mi abbiano voluto bene. Tu, per esempio, tu per primo, ma che cosa credi? Che io non lo vedo, che non me ne accorgo? Io soltanto tacevo, tacevo solamente. Adesso sai, vorrei che tutta questa storia finisse al più presto. Io ho un presentimento ora. Rovinerò la mia felicità. Sai, io sono stato da loro oggi, ma come vedi io non sono riuscito ad entrare perché avevo un peso nell'anima. Io mi sono fermato davanti alla porta, lei suonava il pianoforte, io ascoltavo ma non sono riuscito ad entrare perché avevo paura, non so perché. Vassia, Vassia, perché mi guardi in quel modo? Non lo so, non mi sento molto bene forse. Sai, io ho le gambe che mi tremano, sono stato alzato tutta la notte e ho negli occhi, ho come del verde qui. È qui! Vassia, Vassia, parla, anima mia, tu mi spaventi così! Arcadi, c'è una speranza, io credo. Domani io gliene porto una parte e per il resto gli dirò una bugia. Sì, che si è bagnato, o anzi no, che l'ho perduto. Anzi no, che si è bruciato. No, io gli dirò tutto. Sì, gli dirò che è andata così e così e che non ho potuto farci niente ed egli saprà tutto. Gli parlerò del mio amore. Sì, tanto anche lui si è sposato da poco, mi pare, mi capirà. Tutto questo ovviamente lo farò con calma, con deferenza. Lui vedrà tutte le mie lacrime e rimarrà commosso. Certo, certo, si capisce. Tu va da lui e spiegagli ogni cosa. Ma qua non c'è bisogno di lacrime. Perché queste lacrime adesso? E va bene, niente lacrime. Ma tu fammi andare avanti. Io non farò commuovere nessuno, ma tu fammi andare avanti. Vassia, piuttosto mettiti a letto. Arcadi, non t'affliggere, perché tu ti inquieti sempre per me? Ti riposi un pochino e fra poco ti rimetti al lavoro. E va bene, mi sono strapazzato troppo, forse, hai ragione. Sai, volevo fare altre due paginette, ma adesso ho cambiato idea. Mi vado a coricare. Vassia. Vassia, sono piccole contrarietà familiari quelle fra di noi. Sono cose piccine, in fondo insignificanti. Quello che conta veramente è l'affetto e la stima di Julian Mastakovic, io credo, e non li perderai. Ma... Vassia, io non voglio essere il tuo assassino. Questa non è una cosa semplice, ma è piuttosto importante. Non si può lasciar stare così. Che cosa hai deciso, finalmente? Come vuoi, come vuoi, come vuoi, come vuoi. Prima che tu t'addormenti, bisogna risolvere questa questione. Io non ti lascerò prender sonno finché non mi avrai detto che cosa hai pensato. No! Basta! Basta con questo! Oddio, che cosa succede adesso? Vedi, se si fosse ammalato sarebbe stato meglio, tutto il suo cruccio sarebbe passato e la faccenda si sarebbe aggiustata, sarebbe andato tutto per il meglio e potevamo farla franca. Ma di che diavolo sto sparlando? Vassia. Vassia. Si è addormentato. Buon segno. Veglierò su di lui tutta la notte. Thank you. Vasya. Vasya! Vasya, da quant'è che stai scrivendo? Arcadi, ma come fai ad essere così stupidotto? Guarda, ci sei cascato come un merlo. Ero riuscito a far correre la penna, finalmente. Ero riuscito a far correre la penna, finalmente. Ed ecco, guarda tu stesso. Arcadi, che c'è? Perché tu mi guardi così? Vasya, tu stai scrivendo con la penna asciutta. Ma ho capito, ma che cosa c'entra questo adesso? Perché tu non pensi ogni tanto a quello che dici? Oddio, questo non è uno stordimento, è una cosa seria. Ma certo che è seria! Io ero appena uscito dalla condizione di plebeo, mi capisci? E con le mie sole forze io m'ero saputo elevare da un simile stato. E per non parlare dell'affetto speciale e della stima che lui provava per me, lui solo aveva saputo distinguere in me il mio talento, la mia rara sottomissione. E grazie a lui l'anno scorso io avevo ottenuto il primo grado nella gerarchia burocratica russa, il primo su 14, registratore di collegio. E io avevo fatto sempre tutto con un certo zelo, mi capisci? Lui era così contento di me, proprio lui che mi ha dato i denari, proprio adesso che mi dovevo sposare, ma è una cosa brutale. Anche lui si è sposato da poco, mi pare, ma perché dunque? Vasya, che cosa? Ma perché dunque mi mandano soldato? E io non capisco, ma com'è possibile? Forse qualcuno gli ha sparlato di me. È una cosa momentanea, forse. No, guarda, non è momentanea, mi mandano soldato per negligenza sul lavoro. Ma com'è possibile? Perché proprio a me, dico io, che cosa ho fatto di male? Mi raccomando, non dirlo a nessuno questo, che non ti sfugga nulla questa volta. La disgrazia è la mia, lascia che la porti io solo. Vasya, Vasya, torna in te stesso, ti prego. Amore mio, mia amata, che colpa ne hai tu? Che cosa è colpevole lei? Lei era poverina, non osava nemmeno amare qualcuno. La colpa è la mia, la colpa è tutta mia. Perché farla soffrire così? È come ucciderla questo. Perché? Non lo capiscono. Addio, povera Lisanka, addio colombella cara, addio. Vasya, Vasya, tu non ti muovere, aspettami qui, io corro a cercare aiuto. Aspettami, Arcadi, non te ne andare. Tieni questo prima. Sì, loro me lo toglierebbero, è sicuro. Ti lascio una ciocca dei miei capelli foltissimi che alla luce del sole sembravano neri. Poi me lo porterai. Sì, me lo porterai poi. Su via, basta, fratello, basta. Si vede che tu hai un cuore buono. Vai ora, vai! Dio santo! Senti che roba, impazza la guerra qua fuori! È tempo d'andare! Allora corsi subito da Julian Mastakovic, bisognava pure farne rapporto a qualcuno, no? Eccellenza, eccellenza, Shunkov è impazzito del tutto, si è convinto che lo mandano soldato perché non ha terminato il suo lavoro. Perché dunque è impazzito? Non lo so, per riconoscenza, credo. Per riconoscenza? Ma come può un uomo impazzire per riconoscenza? Aveva un cuore debole e non riusciva a sopportare... Sì, sì, va bene, ma dove si trova adesso? Eccomi, eccellenza! Shunkov, che ti succede? Io ho un difetto fisico, eccellenza. Sono un po' storto da un fianco, sono sbilenco. E poi sono piccolo di statura, ho il fiato corto. Non sono abile al servizio! Abile! Shunkov! Shunkov! Abile! Dio mio, come mi dispiace, era un giovanotto così sensibile, prometteva tanto, era amante del sapere, si sforzava sempre di imparare. E così, per nulla un uomo si è rovinato, e figuratevi che il lavoro assegnato non era nemmeno urgente e niente affatto importante. Beh, bisogna fare qualcosa adesso. Condurlo via. Il medico disse che i malati di quel tipo bisognava portarli subito in ospedale e così è stato. Vasya fu fatto sedere per terra in attesa della carrozza e a tutti quelli che riconosceva faceva dei cenni col capo, come per dir loro addio. Ogni tanto guardava la strada e si preparava a sentire che gli dicessero è ora. Finalmente tutto finì. Arrivarono gli infermieri dell'ospedale e lo portarono via. Al termine dell'orario d'ufficio andai dalle Artemiev. Non è proprio il caso di dire quello che avvenne. Appena mi vide arrivare, la vecchia perse l'equilibrio. Lisanka invece provò a dire qualcosa, ma a un tratto i suoi occhi si riempirono di lacrime e non le uscirono nemmeno le parole di bocca. Io non sapevo che cosa rispondere. Lei allora si girò dall'altra parte, come per nascondermi il proprio dolore. In quel momento m'accorsi che portava ancora sul capo quell'amore di cuffietta, dalla quale forse non s'era mai separata. Il mio cuore allora fu come inondato da un fiotto di sangue improvviso che ribolliva di colpo per una qualche possente sensazione, fino allora sconosciuta, come se solo allora avessi compreso perché era impazzito il povero Vassia. Le labbra tremarono, i miei occhi si accesero e mi sembrò di penetrare con lo sguardo qualche cosa di nuovo.